Paolo Scibilie, da Sentimenti nel vento, la vita. La vita è un dono meraviglioso, che non bisogna negare. È qualcosa di speciale, la prova per l'eternità. I cenni che osserviamo ogni giorno intorno a noi sono ospiti di mille emozioni che commuovono. Questa è la vita, sapere chi siamo. Impariamo ad amare come ci ama Dio.